fiore riverso. Il messaggio che dice Sabba, l'anima mi insanguina, traspare su strade nere la chimera della vita, questo miraggio. D'oblio con più tag, blande cadenze, notte dei miei storti cammini. Verso